Login. Chiavi d'accesso al 2018. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti. Questa è la prima puntata di una trasmissione che vi accompagnerà per queste vacanze di Natale, per queste ferie se ne avete, oppure se siete sul lavoro, molto semplicemente. Ed è una trasmissione che, come avete sentito dal titolo, è dedicata al 2018. L'idea è di trovare sette parole, sette chiavi di lettura per l'anno che sta arrivando, che ci diano un'idea di quello che può succedere, non a livello di singoli eventi, ma a livello di tendenze. E per questa prima puntata noi abbiamo scelto di parlare di un velo che si squarcia, di un muro che si rompe, un velo che si è squarciato nel 2017, ma gli effetti potrebbero sentirsi in maniera più forte, ovviamente, nel 2018. Parliamo di una questione che in Italia, come spesso accade, l'abbiamo vissuta male, in maniera distorta, con il nostro sguardo concentrato sul caso di Asia Argento, il dibattito su Asia Argento, con occhio strabico, miope, senza vedere quello che effettivamente stava succedendo. Parliamo del caso di Harvey Weinstein. Prima del 5 ottobre, uno degli uomini più potenti del cinema americano e quindi del cinema mondiale, produttore, cofondatore della Miramax e poi in proprio con la Weinstein Company, per darvi la misura, i suoi film hanno ottenuto 300 nomination all'Oscar. Parliamo di Pulp Fiction e praticamente tutta la produzione di Tarantino, Will Hunting, Clerks, Il paziente inglese, Il postino, Chocolat, portano tutti la sua firma. Dopo il 5 ottobre, una micidiale accoppiata di inchieste giornalistiche e poi di denunce di donne e di attrici racconta una realtà diversa, una realtà di decenni di molesti. Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Ashley Judd, Daryl Hannah, Mira Sorvino hanno raccontato più o meno tutte la stessa cosa. E questo movimento, che poi è diventato il movimento MeToo e che ha conquistato la copertina di Time, si è esteso anche ad altri mondi, quello della politica naturalmente e poi quello del lavoro. Questo è quello di cui parliamo oggi con Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione. Questo è Login, io sono Simone Spezia e ci sentiamo dopo il traffico. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta... Login, chiavi d'accesso al 2018. Io mi sono sentita male con me stessa perché... Mi vergognavo di quello che mi era successo. Non riuscivo a raccontarlo a nessuno. Ci ho messo tantissimo tempo a dirlo anche a mia madre, a mio padre. Io gliel'ho detto solo ora, dopo tanti anni. E dunque iniziamo proprio da lei, iniziamo da Asia Argento, quantomeno in termini di voce, ma in realtà, come si diceva, quello che vogliamo cercare di capire è che cosa può succedere in questo 2018, se quello che è successo nel 2017 porta ad una nuova forma di coscienza, soprattutto da parte degli uomini, oltre che ovviamente da parte delle donne che hanno iniziato a raccontare, a denunciare. Siamo in linea con la nostra Maria Latella. Maria, ciao. Ciao, buongiorno. Santo. Buon 2018. Buon 2018, anche se siamo ancora nel 2017, però insomma ci siamo quasi. Bisogna portarsi avanti. Allora Maria, la tua impressione da questo punto di vista è se questo 2018 può veramente rappresentare un punto di svolta oppure no? Allora, intanto penso che sia chiaro adesso agli uomini di potere, di qualsiasi potere, micro, macro, che il ritardo sul quale per tradizione, no, si è fondato il rapporto tra un uomo di potere malato e una donna in condizioni di inferiorità, il ricatto: se non stai con me, non fai carriera, non ti faccio fare un film, non ti assumo, non ti faccio avere la promozione che pure meriteresti. Tutto questo ricatto che incombe da sempre nel rapporto professionale uomo-donna. Ecco, dopo il caso Weinstein e a seguire, è chiaro che si ritorce come un boomerang sul maschio che ancora non avesse capito che le cose sono cambiate, perché mettiamo insieme tutti quelli che hanno perso il lavoro e hanno perso tutto. Weinstein ha perso la sua azienda, importanti politici inglesi hanno dovuto dimettersi, uno purtroppo tragicamente si è anche ucciso, registi famosi anche in Italia hanno visto cancellato il loro nome dai film, un attore come il più diciamo famoso dei protagonisti delle serie televisive, penso al protagonista di House of Cards, ha visto cancellata la sua immagine in una semplice, in una forma di dannatio memoria, non sarà più lui l'attore di un film in uscita a breve, insomma, e parliamo di Kevin Spacey, insomma. Tutto questo è ovvio che ribalta il concetto. Se prima una donna diceva ci sto perché ho paura di non fare carriera, ora è un uomo che prima di fare delle profferte deve pensare al posto che rischia, perché l'hanno perduto in tanti. Questo è il primo punto che cambierà. Sì. Il secondo punto è che le donne hanno scoperto che parlare in tante dà forza, e quello che non è stato fatto prima ora si può fare. Quindi chi oggi accetta ancora il ricatto non potrà più nascondersi domani come dire, dietro lo schermo del mi vergognavo. Ora si sa che si può fare, quindi chi non lo fa vuol dire che chi accetta le regole sbagliate di un gioco perverso. Abbiamo in studio con noi anche Tatiana Biagioni, che è presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano e anche presidente dei Gius Lavoristi della Lombardia, e si occupa molto e spesso e da anni di questi temi. Avvocato Biagioni, la prima domanda è la stessa che ho rivolto a Maria Latella: se la sua impressione è che questo 2018, se vogliamo più dal suo specifico punto di vista, e quindi il tema sul tema delle molestie sul lavoro possa rappresentare un punto di svolto oppure no? Per tanti anni, direi una quindicina d'anni, io non sono mai stata interpellata su questi temi da nessuno, ho solo ricevuto delle tante donne molestate, e tante di queste donne non hanno poi avuto il coraggio di agire, nemmeno di denunciare. Questo naturalmente potrebbe essere anche la mia responsabilità. La realtà è che avevano difficoltà, che si sentivano sole e in qualche modo, diciamo così, inermi davanti a una realtà così completa così complessa da affrontare. Ecco, questo evento ha cambiato molte cose. Innanzitutto ha cambiato il fatto che si parla di questo argomento, che si è scoperto quello che io definisco sempre un fiume carsico che ci scorre sotto i piedi, cioè c'è un fiume di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, il luogo dove dovrebbe essere dove esserci rispetto, che non è mai emerso. E allora cominciare a parlarne è una cosa importantissima. E già in questi, diciamo, questo fine di anno, molte donne sono venute da me a raccontare la loro storia, perché forse per la prima volta hanno capito che erano molestate, talvolta anche senza rendersi conto di esserlo, e cercando un po' di vincere questa sorta di complesso, di difficoltà, di senso di colpa che muove le donne anche sui posti di lavoro e che le rende molto difficile questa denuncia, anche perché nella mia esperienza personale, non vuole essere un dato scientifico, le volte che sono riuscita a denunciarlo, tutte le volte, fuorché una, sono state loro ad andare via a perdere il posto di lavoro o nelle grandi aziende ad essere trasferite, quindi perdendo professionalità, ma il molestatore, che normalmente è seriale, è sempre rimasto al suo posto perché è il soggetto più potente, che aveva potere e controllo su queste donne. E la sottolineatura di seriale mi sembra importante, perché presumibilmente ha messo in atto lo stesso comportamento anche successivamente, essendo rimasto nello stesso posto, anche se ovviamente non ne abbiamo la certezza. Maria, poi ti lascio perché so che devi andare, sei impegnata. Solo un'altra domanda correlata al secondo punto che ci illustravi prima, alla voce di Asia Argento che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, a quello che ci diceva l'avvocata Biagioni. L'impressione è forse che se un cambiamento ci può essere in questo 2018, oltre alla percezione degli uomini, è il fatto che finalmente le donne si rendono anche conto di essere molestate nel momento magari nel quale nemmeno pensavano che fosse una molestia, può essere? Ah sì, spesso le donne non si accorgono di essere sotto ricatto, perché pensano è andata sempre così e andrà sempre così. Ora sappiamo che può non andare così. Quindi, insisto, la consapevolezza di diventare consapevoli della propria forza, cioè del poter dire no, comporta però anche l'acquisizione di responsabilità. Attenzione, perché io non vorrei come dire, gettare la croce solo da una parte, perché se c'è un uomo che ti molesta, spesso c'è anche una donna che si lascia molestare. Grazie dunque a Maria Latella, la nostra Maria Latella, che ritroviamo ovviamente nel fine settimana con la sua trasmissione Nessuno è perfetto, e noi rimaniamo con l'avvocato Biagioni per anche aiutare i nostri ascoltatori a capire molto praticamente che cosa dice la legge italiana. Io glielo dico, so che può sembrare scorretta come domanda, però è quello che molti uomini si chiedono sul luogo di lavoro, almeno quelli che hanno un minimo di sensibilità in più, è dov'è il confine, e dove la legge mette il confine. C'è un articolo preciso, che è l'articolo 26 del testo unico delle pari opportunità, che dice chiaramente cosa è una molestia. È un comportamento indesiderato, quindi occorre prendere in considerazione il soggetto che lo subisce. Questo comportamento ha lo scopo e l'effetto, non è necessario che uno voglia molestare, basta che ci sia l'effetto della molestia, di creare all'interno di un luogo di lavoro un clima umiliante, degradante, offensivo, ostile. Quindi, quando si verificano tutte queste circostanze insieme, la legge dice siamo di fronte a una molestia, e una molestia sessuale. Ora io volevo fare anche una precisazione sul fatto che non tutte le donne sono forti, non tutte le donne hanno delle posizioni, qui stiamo parlando delle attrici, è molto importante che queste donne abbiano parlato di questi temi, abbiano fatto, diciamo così, lasciato delle interviste. Io mi occupo di tutte le donne, di donne che lavorano nelle cucine, nelle mense, che fanno le pulizie la notte dentro le banche. Allora, ci sono donne e donne. Allora, le donne più deboli da questo punto di vista, che sicuramente avranno un grande vantaggio da questa diciamo così, grande diffusione del tema in questo momento, ecco, sono loro che anche dobbiamo noi aiutare, sulle quali dobbiamo fare una riflessione. Non possiamo dire a loro ora non è nessuno più ti molesterà, bisogna creare una situazione culturale tale per cui loro abbiano il coraggio di uscire allo scoperto, di essere difese. Beh, del resto la copertina di Time, quella che citavamo, quella dedicata il personaggio dell'anno, secondo Time sono cinque silence breakers, cioè rompitrici di silenzio. Ashley Judd, appunto, Taylor Swift, che ha denunciato un DJ che l'aveva palpata dopo un suo concerto nel 2013, ma anche Susan Fowler, un ex ingegnere informatica di Uber, la cui denuncia di molestie sessuali lo scorso giugno ha portato al licenziamento dell'amministratore delegato e di altri 20 dipendenti. E quindi anche nel mondo del lavoro, ad un livello pur piuttosto elevato come quello di un ingegnere informatico, ma pur sempre un quadro, un normale dipendente, si può evidentemente arrivare a questo. Dalla percezione che ha lei per quello che tratta quotidianamente, in via giudiziaria a che punto si arriva poi? Cioè come vengono trattate dai giudici a conclusione di ovviamente delle necessarie indagini i casi di molestie? Le dico l'esperienza di questi anni, e quindi, come dicevamo prima, il 2018 molto probabilmente sarà un anno diverso. Fino ad oggi, quando ci sono gli elementi, gli indizi precisi e concordanti perché ci sia la prova di una molestia, normalmente le donne non vogliono rientrare in quel posto di lavoro, le aziende non vogliono chiudere, ci sono delle conciliazioni, non si riesce a rientrare o a comunque a continuare quel rapporto di lavoro, che questa era la regola, lo dicevo anche prima. Il molestatore spesso rimaneva dov'era e c'era un accordo col soggetto che denunciava la molestia. Quando si arriva anche in Palazzo di Giustizia, spesso si cerca un accordo ugualmente per l'uscita dalla donna, dal luogo di lavoro, quella donna che ha molestato. Io spero che da ora in avanti anche le aziende si rendano conto che chi molesta lavora poco, non produce, impedisce a chi viene molestato di produrre. Quindi, se non si vuole pensare al fatto che si viola la dignità di una persona, come dice anche l'articolo 26, quando si fa una molestia, si pensi anche al fatto che c'è un calo anche della produttività. Le aziende devono riflettere anche molto su questo tema. Andiamo a chiudere dunque questa puntata di Login, che è la prima. Login, le parole chiave del 2018, chiavi d'accesso al 2018. Prima puntata, torniamo domani e per 7 puntate, poi ce ne sarà una complessiva di un'ora che vi racconterà, insomma, vi metterà un po' insieme tutti questi concetti. Proseguiremo a raccontarvi come può essere questo 2018. Abbiamo deciso doverosamente di aprire questa trasmissione appunto parlando di donne, parlando di questo velo che si è squarciato. Grazie ancora a Laura Faggini in assistenza in redazione, grazie a Paolo Corleoni in regia, Maria Latella che è intervenuta al telefono e Tatiana Biagioni, presidente dei giuslavoristi della Lombardia e presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Milano e avvocato che, come avete sentito, si occupa di queste cose, per essere intervenuta in studio. Una buona giornata da Simone Spezia, ci sentiamo domani.